L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati. Torniamo questa settimana su un tema che ci è molto caro, per così dire, quello dei rifiuti, e lo facciamo approfittando della presentazione che c'è stata in settimana a Milano di un docufilm, come ormai si usa dire, che si intitola Meno 100 kg. Cosa c'è nella spazzatura? È un docufilm di Roberto Cavallo, presidente di Erika, società cooperativa ormai specializzata nella gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale, e i 100 kg a cui si allude sono quelli che possiamo tagliare dalla quantità di rifiuti che all'anno ciascuno di noi produce. In realtà sono anche i chili che abbiamo messo su, per così dire, negli ultimi 15-20 anni, perché non li producevamo questi rifiuti negli anni 90. Arrivano da imballaggi, cambi compulsivi di computer, cellulari, vestiti, attrezzi di ogni genere di cui ci riempiamo le case senza averne effettivamente molto bisogno. E ci sono anche molti alimenti tra questi rifiuti, alimenti che facciamo invecchiare nei nostri frigoriferi e poi gettiamo via con molta leggerezza. E infatti, come ci diceva al Forum Barilla di dicembre Ian Lundquist, consulente senior dell'Istituto Internazionale per l'Acqua di Stoccolma, al mondo si produce più cibo di quanto non sia necessario a tutti per essere sani. È la distribuzione che non va. Negli anni 70, la FAO aveva come obiettivo di lavorare per la riduzione degli sprechi e delle perdite di cibo. Ma ricordo che quando insegnavo all'università, tutti si concentravano solo sull'aumento della produzione, perché si credeva che l'unica soluzione possibile per la malnutrizione fosse l'aumento della produzione. Ma quello che abbiamo constatato negli ultimi 15 anni è che all'aumento della produzione pro capite è aumentato anche il numero di coloro che non hanno cibo a sufficienza. Il fallimento è chiaro. Se non siamo riusciti a ridurre il numero delle persone malnutrite, a quale scopo abbiamo fatto tanto per aumentare la produzione? Una parte della spiegazione è che molto viene sprecato o perduto, come dicevamo. L'altra è la cattiva distribuzione del cibo, che in più ha creato un grave problema di ipernutrizione. Al mondo ora ci sono più persone obese che persone denutrite, anche se è convinzione comune che sia il contrario. Così diceva Lundquist. Ma torniamo al film, ai meno 100 kg. Il regista è Emanuele Caruso, regista di Alba, giovane ma non alle prime armi. Roberto Cavallo, come dicevamo, presidente di Erika, ha scritto il soggetto ed è anche la voce narrante. Nella parte documentaristica è accompagnato da Andrea Fluttero, senatore, membro della Commissione Ambiente, che fa da contraltare critico, fa un po' il bastian contrario, cerca di proporre le questioni in altri termini o di fornire altri punti di vista. Torniamo al solito discorso nel quale io dico che sarebbe meglio fare più 100 kg, non meno 100 kg. Meglio più 100 kg, dice Fluttero, perché significa che i consumi sono ripartiti. Poi ci occuperemo di raccogliere i rifiuti, di riutilizzarli, di riciclarli, di fare del nostro meglio affinché non finiscano nell'ambiente, sostiene Fluttero, ma è meglio produrne di più da un certo punto di vista. Oggi è venuto questo Roberto. Ci ha fatto vedere che buttiamo via troppe cose. Benissimo. La parte del film è invece affidata a Giuseppe Cederna e Giorgia Torrengo. Sono padre e figlie e compaiono in scenette piuttosto frequenti, ahimè, nelle nostre famiglie, genitori che vanno di fretta, che predicano bene ma razzolano malissimo, davanti a bambini molto più giudiziosi di loro. Tu sai che cosa vuol dire riciclare? Certo che lo so. Sì, però tu non lo fai. Insomma, mettendo insieme queste scenette familiari, mettendo insieme l'approfondimento scientifico con chiacchiere in auto, visite in città e aziende specializzate in recupero, riciclo e, se possibile, riutilizzo, ecco, Cavallo e Fluttero chiudono un film per tutti, ma in particolare per le scuole e le scuole che fossero interessate a visionarlo, organizzare dei forum, facciano riferimento al sito meno100kg.wordpress.com. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando... Cocciante qui parla d'amore, ma anche in tema di rifiuti c'era qualcuno che aveva già previsto tutto e l'aveva scritto. così come nel film fanno Luca Mercalli, Cristina Gabetti, Mario Tozzi e Oliviero Corbetta, noi abbiamo chiesto al collega e conduttore Federico Taddia di leggerci un passettino delle vicende di Leonia, una delle città invisibili di Italo Calvino, scritto nel 1972. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai? Nessuno se lo chiede. Fuori dalla città, certo, ma ogni anno la città si espande e gli immondezzai devono arretrare più lontano. L'imponenza del gettito aumenta e le cataste si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, e fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta ad ogni lato come un acrocoro di montagne. Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto. È chiaro il concetto, no? Ci stiamo fregando col nostro stesso ingegno. Calvino, che non ha sbagliato un colpo nel dipingere la città del futuro, che è ormai la nostra, non poteva però prevedere la crisi economica, che invece è arrivata, aggiungendo problema a problema. Perché i draghi che abbiamo inventato per divorare e distruggere la nostra spazzatura, cioè inceneritori e termovalorizzatori, hanno bisogno di essere nutriti ogni giorno nella buona o cattiva sorte. Al dibattito che ha seguito alla presentazione del film, Pier Giorgio Valentini, dirigente del settore rifiuti e bonifiche della provincia di Milano, osservava che dal 2008 c'è stata una grande riduzione nella produzione dei rifiuti in provincia e che per nutrire gli impianti e assicurarci il teleriscaldamento, ad esempio, si è dovuti andare a cercare i rifiuti sempre più lontano. Risponde a questa questione prima Roberto Cavallo e poi il senatore Fluttero per il risvolto della medaglia, come dice lui. Questa sollecitazione in parte si trova nel film, in campagna sulle cartiere. A un certo punto, non so se ricordate, l'imprenditore dice: noi qui abbiamo il doppio di capacità di trattamento, ma la carta va in Cina. Non lo dice, ma il problema è quello. Cioè vale su tutte le frazioni di rifiuto e io la penso esattamente così. Io credo che a un certo punto la governance dovrebbe anche forzare un pochettino la mano su quello che si chiama tecnicamente il principio di prossimità. Io adesso ti faccio il rovescio della medaglia, perché se un'amministrazione pubblica ha raccolto una certa quantità di carta e dopo riesce a venderla a un prezzo, non lo dico perché ne sia, sia convinto che sia giusto da un punto di vista ambientale, concordo con te, è meglio se la teniamo vicina, però ti dico il risvolto negativo. Se io quella quantità di carta la vendo in Cina oppure da un'altra parte e me la pagano di più, quei costi li incassa l'amministrazione pubblica e la usa per, diciamo, va a finire nel calderone del costo che poi ribalta sul cittadino. Se io non posso venderla dove mi pagano di più e la vendo lì dove se andate a vedere l'impianto e me la pagano meno, quel minor introito finisce anche come maggiore costo sulle mie bollette. Questo è il rovescio della medaglia, che non è un mercato astratto. Io ti propongo, se vieni rieletto, di votare una carbon tax che internalizza quei costi ambientali lì e arriviamo a risolvere il problema. Valorizzare o penalizzare i comuni a seconda dell'applicazione di strategie per la riduzione del riciclo e il recupero. Interviene a questo punto e su questo punto Alessio Ciacci, assessore all'ambiente del comune di Capannori, il primo comune in Italia ad aver aderito alla strategia internazionale Rifiuti Zero. Il fatto che ci sia questa stortura, cioè che diciamo sul mercato si valorizzino certi meccanismi rispetto alla filiera corta, deriva a mio giudizio anche da un'altra stortura, cioè il fatto che per legge i comuni sarebbero obbligati a acquistare prodotti fatti con materiale riciclato e non lo fanno e non ci sono meccanismi legislativi che applicano delle penalità per questi comuni. Credo sarebbe importante inserire meccanismi che valorizzano e penalizzano e quindi riorientano anche questi meccanismi. I premi, almeno a Milano, arriveranno, ha promesso Cristina Stancari, assessore provinciale all'ambiente. Noi abbiamo 13 comuni in provincia di Milano che hanno superato la quota del 70% di raccolta differenziata. Normalmente cosa succedeva? Noi facevamo questo rapporto come ogni anno, perché la provincia è tenuta a fare questo per legge, pubblicavamo i dati e basta, fine. Invece quest'anno abbiamo detto no, cavolo, però questi comuni che si sono distinti, noi li vogliamo premiare, vogliamo premiarli anche con dando un contributo economico che sicuramente non sarà tantissimo perché, come ripeto, ahimè non abbiamo più quelle disponibilità di una volta, però è un modo per dire questi comuni sono stati virtuosi e noi vi premiamo. Ecco, questo riassunto molto in breve è un dibattito nato dal film che ogni scuola o associazione potrà promuovere nelle proprie città per sapere come vanno le cose in loco e come gli amministratori pensino di cambiarle. È tutto per questa puntata. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto. Ci ritroviamo tra una settimana alla stessa ora.